Pablo Picasso, raccontato da Gianluca Nicoletti. A chiunque chieda "mi dici una frase di Pablo Picasso", la risposta più immediata, perché è una frase da fogliettino dentro i cioccolatini o citata in ogni luogo in rete laddove si cerchi frasi celebri di Pablo Picasso, è "si impiega tantissimo a diventare giovani". Certo, probabilmente è una frase che non può dirla che una persona quando ormai la giovinezza è soltanto un ricordo lontano. È la grande consolazione di tutti gli anziani o di tutte le persone mature che in realtà possa permanere una sorta di giovinezza nell'animo. Io mi sento giovine dentro, ma perché mi sento ancora una ragazza? Dice la vecchia in carta pecorita che si guarda allo specchio nell'orrore del suo sembiante. Diciamo che la giovinezza è completa quando corrisponde a una freschezza delle carni, quando corrisponde a una vigoria del corpo, quando corrisponde a un fascino dato alla propria persona. Detto da un grande artista, naturalmente, è significativo del fatto che si è giovani quando si tocca il punto più alto, più raffinato della propria esperienza artistica, quindi la maggiore giovinezza, la maggiore freschezza, il maggior contatto con la scaturigine profonda della propria arte si ha quando si è molto anziani, ma in realtà quando si è vecchi e basta e si puzza. Pablo Picasso, capolavori dal Museo Nazionale Picasso di Parigi, dal 20 settembre al Palazzo Reale di Milano. Info radio24.it.